Pablo Picasso, raccontato da Salvatore Carrubba. Ma Picasso era bravo, si chiedeva Giorgio Soavi in un delizioso libricino pubblicato oltre 30 anni fa da Longanesi. Sì, era bravo, e non dobbiamo farci ingannare da certi sgorbi di quelli che lo potevo fare anch'io, come recita il titolo di un libro di Francesco Bonami, il quale ha assunto Picasso come pietra di paragone dell'arte contemporanea in un altro suo libro, Si crede Picasso, anch'esso pubblicato da Mondadori. Picasso era bravo, anzi era una forza della natura, come lo definisce Federico Zeri nel suo abbecedario pittorico edito da Longanesi. Qui Zeri anticipa un'osservazione avanzata recentemente dal grande critico francese Marc Fumaroli nel libro Paris, New York e ritorno di Adelphi. Secondo Fumaroli, la grandezza di Picasso rispetto ai suoi contemporanei, a partire da Duchamp e poi di Andy Warhol, che egli considera autori di semplici pleonasmi che annoiano, starebbe nell'aver preferito cornici antiche per i suoi dipinti, ossia nel non aver mai reciso il legame con la classicità, riconoscendo anzi, scrive Fumaroli, che il genio delle arti antiche gli era necessario per sostenere la sua furia e farlo stare a testa alta nell'arena di fronte ai creduloni della modernità. Come dire, essere contemporanei è un'impresa che a Picasso riuscì. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it